1-0, stronzo. Vai, vai. Contro lo Stato. Vorrei fare il politico per fare ciò che fanno loro. Io nella merda e loro sempre nell'oro. Ci sembra gente a posto, ma son peggio di noi. E con le leggi ci manovra come in un Game Boy. Gente per bene sembrano da giacca e cravatta, invece come drogati fanno vita sempre fatta. Promesse, impegni, giuramenti non mantenuti. Ma noi non mantenuti non possiamo stare muti. Per 100 voti fai promesse che sa già non manterrai. Tanto lo sai, te ne fotti dei nostri guai. Come mai tu prendi 2 milioni all'anno, mentre noi con 1000 al mese stiamo a vivere nel danno, oppure nel disagio? A te ti colpirei con un gancio, e dopo tutto a prometterci ha pur coraggio. Destra, sinistra o centro, sempre a trovar quei 100. Le tue promesse non credo, le tue parole non sento. Contro lo Stato. FUBO, Shaq sul beat, rima chimica. Faccio rap, no direzioni, no politica. E critica la situa nel sistema e nello Stato. E la mafia la prima azienda per fatturato. Spendi lo stipendio in trans, quindi fai politica. Non spendi soldi per la gente, lei si inimica. Parli di Marrazzo e delle Viados, che si è scopato, meglio disoccupato, anziché servo dello Stato. Fuck Berlusca, fuck petrolio al presidente Fini. Non mi interessa un cazzo di Dario Franceschino. Che tra destra e sinistra c'è il centro di Casini. Senatori e deputati, venite a UEM a far pompini. Noi non mantenuti non possiamo stare muti. Cosa credi, ignoriamo noi di voi più acuti. 100.000 al mese, ma tu non fatichi, non sudi. Noi con 1000 al mese dobbiamo stare muti e nudi. Contro lo Stato. Perché se contro lo Stato ci sarà pure un motivo. Descrivo e mi punite per la verità che scrivo. E vivo in uno Stato che non pensa al mio futuro. Non temere se ti trovi solo con le spalle al muro. Perché se contro lo Stato ci sarà pure un motivo. Descrivo e mi punite per la verità che scrivo. E vivo in uno Stato che non pensa al mio futuro. Non temere se ti trovi solo con le spalle al muro. Contro lo Stato. FUBO e Sharp contro lo Stato organizzato. Contro lo Stato 2-0-1-0.